va così bro, fisso va così bro, sai che va così bro. Loro sono come cannibali, sono carnivori, sono avvolto e non sono punibili. Sono serpenti, solo che sono bipedi, sono merde, se lo capite capitemi. Sono sai chi, gente con la grana, società mondana, visto che non siamo fratelli della stessa Italia. Gente artolocata, intoccabile sacra, che la legge vale per tutti è una minchiata. Me la vivo a sbatti da sempre, so che non c'è futuro. Ogni giorno sveglio alle 7, faccio consegne a cupo. Loro sono ricchi, hanno i soldi e tu non sei nessuno. Per stare bene dovrei seccarmi. Sono benestanti, sono di buona famiglia. Tu rinunci ai sogni, tu puoi mettere su famiglia. Quello per cui parlo è puro odio e non invidia. Esistono, sono tra noi, da che la storia è scritta. Sì, esistono, se decidi di rimanere fuori dal loro perimetro. Sei in pericolo, decidono, ti uccidono. Sì, esistono, se decidi di rimanere fuori dal loro perimetro. Sei in pericolo, decidono, ti uccidono. Essi esistono e creano lobby, e c'è poco di nobile nel loro cazzo di hobby. Lo vedi coi tuoi occhi, la realtà supera la fantasia di Orwell. Quando guardi in faccia sti porci, lord e di lord, lord immanicati, corrotti, brindano i loro traffici in calici sporchi di sangue. Mentre poco distante c'è gente che piange, morti non conti un cazzo se nessuno è vali meno di uno dei sei zero. Nei loro conti fanculo, sbocco veleno. Ogni giorno, tutti i giorni, piuttosto fotto sotto. Ma il soldo non mi compri, esistono di noi e te ne accorgi. Poliziotti, blocchi, gas, lacrimogeni, sensorgi. Ti controllano se non ti controlli. Ma sei tu che li controlli, se non crolli, li foti. Sì, esistono, se decidi di rimanere fuori dal loro perimetro. Sei in pericolo, decidono, ti uccidono. Sì, esistono, se decidi di rimanere fuori dal loro perimetro. Sei in pericolo, decidono, ti uccidono. Sì, esistono, se decidi di rimanere fuori dal loro perimetro. Sei in pericolo, decidono, ti uccidono. Già mi sai com'è che va, com'è che va. Se decidi di rimanere fuori dal loro perimetro, sei in pericolo, decidono, ti uccidono.